Prova. Sì. Ah. Poi si va più lenti perché noi ci si passerà il microfono. Sì, sì. Tanto. Si va. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia al volo dell'Aquila, sempre trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in Via Isidoro a Montevarchi, sempre ringraziando Stefano Neri che ci concede questi spazi. Fumino, questa sera abbiamo ben due ospiti e torna uno dei motivi trainanti già trattati, perché il di padre in figlio, in questo caso di padre in figlia, perché abbiamo qui davanti a noi un ex grande calciatore del Montevarchi e una calciatrice dell'Aquila femminile che tra l'altro ha appena vinto il campionato di Serie D. Proprio così, Julian, stasera è una puntata particolare. Ma non iniziamo senza ringraziare il nostro regista di stasera, che per l'occasione John Huston, direttamente diciamo da uno dei film più rappresentativi per il mondo del calcio, ovvero Fuga per la Vittoria, grandissimo film che più o meno tutti si ricordano. Ma bando alle ciance, diamo il benvenuto agli ospiti di stasera, che sono Andrea Bernini e sua figlia Alisia. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Per rompere il ghiaccio inizio una prima domanda a te, Alisia, visto che sei freschissima della vittoria del campionato femminile. Abbiamo già avuto ospite alcune tue colleghe, alcune tue compagne e alcuni della società dell'Aquila femminile, quindi la domanda di attualità è questa: che emozione hai provato e com'è andata, insomma, questa fine di campionato che è stata un successo, insomma, non perdete credo da un sacco di partite. Sì, nel girone di ritorno non abbiamo mai perso, infatti, e è stata un'emozione fortissima perché è stata la prima mia vittoria di un campionato e sinceramente è stata veramente un'emozione forte, non me l'aspettavo di provare così tanto durante appunto la vittoria, soprattutto a tre partite d'anticipo dalla fine del campionato. Esatto, l'Aquila femminile ha vinto appunto come diceva Alisia con tre giornate di anticipo, e per chi non è di Montevarchi o comunque per chi non ha seguito la cavalcata della squadra, in che ruolo giochi te, Alisia? Io sono un centrale. Centrale difensivo? No, di centrocampo, mezzala. E passiamo dalla figlia al padre, Andrea, che ha bisogno di pochissime presentazioni, ovvero non ne ha bisogno, in quanto alla fine, pensandoci bene, è il calciatore o ex calciatore che più in alto è arrivato a giocare al calcio, ovvero è arrivato alla summa del calcio, la Serie A, che è stato ospite graditissimo dei nostri microfoni. Andrea, la tua esperienza a Montevarchi è iniziata nel 1997. Tu giocavi in Serie D e il Montevarchi all'epoca era in C1, quindi hai fatto un doppio salto, cosa che si ripeterà dopo, ma ne parleremo dopo appunto. Come è andata che qualcuno ti ha visto e ti ha prospettato la possibilità di venire a giocare a Montevarchi in C1 e che sensazione hai provato? Sicuramente mi ricordo che il mio pensiero venire dalla Serie D, diciamo da un campionato dilettante, anche se avevo già fatto un doppio salto, perché dalla promozione sono andato direttamente in Serie D. A San Giovanni ho fatto molto bene in Serie D quegli anni, poi venne una chiamata al Montevarchi che addirittura era in C1, quindi per me non era sicuramente facile anche a livello psicologico poter affrontare, insomma, il salto della doppia categoria. Il primo anno è stato, diciamo, più un anno di transizione, perché ho fatto sì 24 presenze se non ricordo male, giocando non sempre titolare, però mi ricordo eravamo una squadra forte, anche se abbiamo lottato fino alla, diciamo, all'ultima giornata per non retrocedere, però c'erano giocatori del calibro di Cimarelli, che poi l'anno dopo andò in B a Lecce, Bernardo Corradi, quindi non era facile. Quell'anno lì per me è stato un anno un po' di transizione, dove ho fatto anche abbastanza bene, discretamente, sono sempre stato impegnato. Poi, diciamo, l'anno vero e proprio è quando Discepoli ha deciso di confermarmi e di darmi fiducia. E lì mi ricordo che, insomma, a gennaio avevo già a metà anno, diciamo a metà del secondo anno, avevo già molte richieste. E com'è stato poi passare da quella che è una realtà provinciale comunque come quella di Montevarchi per andare nella massima serie immediatamente dopo a Reggio Calabria a giocare all'apice di quella che può essere la carriera di un calciatore, anche proprio a livello emozionale di differenza da un pubblico ad un altro volendo? Lo ricordo bene, lo ricordo con minimi dettagli, ma mi ricordo bene anche l'ultima partita che ho fatto in casa a Montevarchi, perché io era già da tempo che ero seguito da diverse squadre di categoria superiore, quindi un po' tutti lo sapevano. Quindi mi ricordo l'ultima partita in casa che Discepoli mi sostituì a 10 minuti alla fine e aver il brivido nel raccogliere l'applauso veramente di tutti. In un anno trionfale per noi perché abbiamo raggiunto la salvezza con tantissime giornate di anticipo e mi ricordo che nell'ultima partita in casa con la Pistoiese facemmo 0-0, cioè la partita finì 0-0, se avessimo vinto avevamo molte possibilità di fare playoff. Potrei sbagliare, però mi sembra che è stato l'anno dove Montevarchi ha fatto più punti in C1. Poi è venuta questa chiamata da parte della regina che al momento che io ho firmato il contratto, diciamo, era in Serie B. Poi la regina ha vinto il campionato e lì mi ricordo ancora che quando la regina ha vinto il campionato ho chiamato subito il mio procuratore che era Baldini per dirgli adesso cosa succede. Poi è iniziata questa avventura, mi ricordo che Alisia aveva un mese e sono partito per questo ritiro consapevole di giocarmela, però ci credevo, però ancora non mi rendevo bene conto. Però io ho fatto un grandissimo precampionato, mi sono trovato dall'ultima partita giocata in Lecco Montevarchi a giugno a 2 mesi di distanza, il 31 agosto del 99, a fare l'esordio in Serie A, tra l'altro da titolare in posticipo. Prima non era Sky ma era Teleview alle 20:30, quindi potete immaginare il mio stato d'animo. Mi ricordo solo che sono stato 3 giorni senza dormire e niente, poi la partita tra l'altro è stata storica perché la prima della regina in Serie A, riuscimmo a pareggiare 1-1 a Torino a Delle Alpi e fu una gioia immensa, non solo la partita ma anche al rientro a Reggio Calabria che la mattina ci aspettarono in 4.000 sulla pista di atterraggio, quindi sono state emozioni veramente forti, veramente importanti. E poi insomma da lì sono stato bravo perché insomma sono riuscito a rimanere nel calcio professionistico per tanto tempo. E di padre in figlia dicevamo, e in questo caso Alisia ha calcato le orme del padre. Ma su questa tua scelta, quanto ha pesato avere un padre di questo livello? Beh, iniziare comunque un'esperienza calcistica pensando ad avere un padre che comunque ha avuto una grande esperienza è stato all'inizio un po' pesante, cioè ero molto tranquilla perché comunque ho iniziato con il pensiero che fosse un divertimento che poi alla fine si è trasformato in una grande passione. Però all'inizio appunto avevo questo grande desiderio comunque di essere... cioè comunque di rendere mio padre fiero appunto di me, di quello che facevo, nonostante appunto dovessi portare il nome di una persona comunque, cioè di un padre che ha giocato appunto ad alti livelli. Io penso che comunque sia abbastanza fiero di me, perché me lo dice abbastanza spesso e quindi ne sono soltanto contenta. E comunque, considerando appunto come Andrea ci ha già detto, che eri piccolissima quando lui ha iniziato a calcare i campi della massima serie, riguardando oggi però le immagini, i video, comunque il fatto che tuo padre è su Wikipedia o magari appare in televisione o magari su YouTube ci sono video di quando giocava, che impressione ti fa vederlo ancora giovane, vederlo a quei livelli oggi e considerando che è comunque tuo padre che vedi quotidianamente a casa tua? Allora, quando ero piccola lo vedevo semplicemente con gli occhi, cioè, di una figlia, quindi lo vedevo semplicemente come un padre. Per me, cioè, non la notavo questa grande differenza, per me era semplicemente mio padre. Ora magari, cioè, crescendo comunque cominci a vedere appunto che in televisione o comunque su Wikipedia, sui giornali, e fa quasi strano, però alla fine rimane sempre, cioè, lo vedi sempre con gli occhi di una figlia, quindi non è che cambia più di tanto. torniamo al calcio giocato, ai massimi livelli. Andrea, ci hai raccontato delle forti emozioni che hai provato ad esempio a Reggio Calabria al ritorno dalla prima partita della Regina in Serie A, ma che emozione hai provato dopo un Regina Parma finita 2-0 per la vostra squadra? In porta nel Parma c'era un certo Gigi Buffon e quei due gol li ha segnati Andrea Bernini. L'emozione più forte sicuramente della mia carriera, l'emozione grande che ricordo sempre, l'ho stampata nella mente, la rivedo spesso anche su YouTube. È stata veramente una sensazione bella, particolare, perché poi oltre a quello, la soddisfazione personale, c'era anche il discorso che avevamo bisogno di punti, la classifica, un periodo dove avevamo fatto un girone d'andata non bello, quindi venivamo da un periodo buono e per noi quella era una partita fondamentale per poter sperare di riuscire a agguantare la salvezza. Riuscire a essere uscito da una partita così delicata, ricordo che il Parma era il Parma che si giocava la Champions League, quindi con Buffon, Cannavaro, Thuram, Di Vaio, quindi un Parma diciamo devastante. Essere stato protagonista di una partita del genere, insomma, lo ricordo come forse la gioia più importante che ho provato nella mia carriera. Tornando invece al calcio più locale, vale a dire a quello che hai vissuto a Montevarchi, siccome non sei il primo calciatore che è intervenuto alla nostra trasmissione che è arrivato a Montevarchi da ex San Giovannese, ovvero da giocatore della San Giovannese, la domanda che ti faccio è: che tipo di approccio hai avuto a Montevarchi provenendo dalla San Giovannese? Non ho sentito molto tutto il campanilismo che si avverte, anche perché detto, non giocando il derby così, all'inizio forse un po' di timore c'era, perché si sa che c'è molta rivalità e quindi magari ci poteva essere qualche critica, qualche partita che ho sbagliato, sicuramente ho sentito dei commenti perché è un San Giovannese. Però fondamentalmente penso che uno difende i colori della maglia in cui gioca, quindi in quel momento mi sono sentito San Giovannese, come è giusto che sia stato, e mi sono sentito montevarchino. Fine carriera sono ritornato a San Giovanni e sinceramente non ho avvertito nessun tipo di rivalsa nei miei confronti perché ho giocato a Montevarchi, quello no. Però so che di altri miei colleghi che insomma lo hanno avvertito in maniera forte, forse anche perché o montevarchini o abitavano a Montevarchi o a San Giovanni e quindi hanno avuto qualche problemino, diciamo. Anche perché comunque quando sei tornato a San Giovanni da giocatore, a fine carriera praticamente di acqua sotto ponti ne era passata tanta, hai vissuto tante stagioni da protagonista anche in Serie B, hai visto tantissimi stadi, hai giocato a Napoli, quindi hai calcato il campo del San Paolo. Qual è lo stadio più emozionante dove ti sei trovato a giocare una partita, sia come atmosfera che anche come struttura? Perché ad esempio ci hanno raccontato del Marassi come uno stadio che comunque fa impressione anche da vuoto, per come è strutturato, per come è bello. Ce ne sono diversi. Sicuramente, vabbè, l'emozione dell'esordio a delle Alpi con 60.000 persone è indimenticabile. Ho avuto la fortuna di giocare 2 anni nella Sampdoria e di vincere il campionato dalla Serie B alla Serie A, giocare 5 derby, e ti dico che Marassi ti fa un effetto veramente strano, perché classico stadio inglese. E poi provare l'emozione del derby di Genova è veramente unica, perché è veramente un derby sentito. Diciamo, si inizia a giocare il derby dal lunedì prima, arrivando poi alla domenica, perché tutti i giorni tifosi al campo, insomma, è molto sentito. L'atmosfera dello stadio è veramente bella. Ho avuto la fortuna di giocare 5 derby, per fortuna ne ho vinti 3, pareggiati 1 e persi solamente 1, quindi sono state anche diverse feste. Ma andiamo adesso a chiedere a chi i derby invece li ha giocati anche a Montevarchi, ovvero ad Alisia, che seppure nel calcio femminile si è ritrovata alla sua prima stagione a Montevarchi a giocare il derby Montevarchi-San Giovannese e San Giovannese-Montevarchi, ovviamente. E che effetto ti ha fatto invece a te aver giocato questo derby? E lo sentivate di più anche voi come un derby vero oppure era una cosa più blanda? Cioè, nonostante comunque la squadra, anche l'anno scorso, che comunque la squadra era appena formata, già il derby si sentiva tanto, soprattutto a livello psicologico. Non soltanto, non magari perché venivano tante persone, magari soprattutto l'anno scorso, a vederci o comunque fra tifosi, ma proprio una cosa, una questione di squadra, proprio si sentiva proprio la voglia di fare di più, di vincere. Come ha detto, ognuno difende alla fine i colori della squadra con cui gioca. E quindi si sentiva molto, nonostante appunto comunque l'anno scorso ci trovavamo appunto in Serie D e avevamo appena appunto iniziato questa nuova avventura. Quest'anno invece è stato molto molto più intenso, soprattutto quello del girone di ritorno, perché comunque avevano preparato una coreografia che già per noi, che comunque non sono sempre, appunto spesso seguono la prima squadra, non vengono spesso a vederci, era già qualcosa di grandissimo e di meraviglioso. E vincere appunto il derby, che noi appunto ne abbiamo persi due e pareggiati uno, vincerlo finalmente è stato veramente un'emozione, penso una delle più belle a livello appunto di questi due anni, dopo ovviamente la vittoria del campionato, la partita della vittoria del campionato. E poi tra l'altro le tue colleghe di squadra vennero qui in trasmissione da noi il lunedì dopo aver perso il derby d'andata, che fu anche abbastanza catastrofico, se non erro perdeste 5-0, 3-0, sto esagerando, però il capitano sbagliò il rigore, mi ricordo, e fu uno dei temi che non si doveva dire e poi venne fuori. E quindi sicuramente averlo vinto poi a Montevarchi sarà stato ancora più bello, anche per un senso di rivalsa. Tra l'altro poi da lì, anche già da prima, non avete perso più, quindi la rivalsa è stata completa. Quello che ci raccontavano, comunque ce lo raccontava anche Poggesi, è direttore sportivo se non erro, è il fatto che a differenza delle altre squadre della Serie D femminile, voi avete praticamente sempre giocato in casa a Brilli Peri, che comunque a livello di stadio era diverso da quelli dove andavate a giocare, quindi era una struttura che già poteva incutere timore o nel vostro caso darvi un po' di forza. Contemporaneamente, dopo la vittoria del derby, partendo da quello, avete visto anche aumentare il pubblico. Qual è stata la sensazione da parte vostra nello spogliatoio di vedere questa crescente attenzione, seppur limitata rispetto al paragone con l'attenzione per la prima squadra maschile, però sempre di femminile si tratta, quindi realtà nuova, realtà in crescita, vedere questa crescente attenzione della città in quello stadio dove effettivamente hanno calcato il campo grandi giocatori come tuo padre, tra l'altro? Beh, io penso che non che all'inizio ci avessero sottovalutato, ma comunque continuando a vedere, soprattutto quest'anno, sempre più, cioè sempre maggiori risultati, comunque le persone cominciavano anche ad appassionarsi, a cominciare a chiederci i risultati, a chiedere chi faceva gol, soprattutto ora, cioè ci conoscono anche per nome, quindi ti fanno sentire quasi importante. E anche la possibilità di giocare appunto in uno stadio come il Brilli Peri è una possibilità che una squadra femminile di Serie D, cioè una possibilità veramente immensa, e poche squadre anche a livelli superiori hanno appunto questa poca possibilità di giocare in grandi stadi. Noi siamo veramente contente, anche soprattutto della società, per la disponibilità, per l'organizzazione. Comunque, anche se non possiamo giocare a Brilli Peri, abbiamo comunque lo stadio di Mercatale, che è sempre un grande, cioè appunto un grande stadio. Le emozioni del calcio giocato e le emozioni anche del calcio tifato da bambini e anche dopo, insomma, tutti più o meno sono tifosi di una squadra di calcio, generalmente di Serie A, solo in pochi sono tifosi di squadre minori e basta. Quindi anche Andrea mi immagino che abbia avuto o che abbia ancora una fede calcistica che lo ha seguito probabilmente dall'inizio dei suoi ricordi del calcio. Ma visto che tu hai giocato in Serie A per diversi anni e sicuramente hai giocato contro anche alla tua squadra del cuore, ci riveli quale è e che emozioni si prova a giocare contro la propria squadra del cuore? Allora, sono sempre stato per la Fiorentina. Quando ero più piccolo sono stato anche abbonato, poi dopo ho iniziato a giocare la domenica, quindi non potevo più seguirla. Sono sempre rimasto simpatizzante della Fiorentina, anche se poi dopo, quando fa da professionista e sei a alti livelli, diciamo, la fede rimane sempre quella, però la vedi in maniera diversa. Diciamo comunque sempre tifoso della Fiorentina e simpatizzante molto in tutte le squadre dove ho giocato, quindi le seguo sempre. La sensazione di giocare contro la Fiorentina l'ho avuta la seconda giornata di campionato a Reggio Calabria, sempre da titolare, anche lì pareggiamo 2-2. È stata un'emozione grande, anche se l'emozione più grande è stata giocare a Firenze, perché c'erano tutti gli amici, mi hanno dedicato anche uno striscione che ricordo, e insomma, pensare di calcare quel campo dove prima potevo vederlo solo dalla curva, mi ha fatto sicuramente un effetto strano, e tuttora quando vado a vedere la Fiorentina certe volte penso che io, insomma, ero lì, e anche questo ti fa sicuramente, ti dà una bella sensazione. Tra l'altro, Andrea, attualmente sei allenatore del settore giovanile d'Arezzo, se non erro. Hai allenato anche in prima squadra la San Giovannese lo scorso anno, la scorsa stagione. Com'è guardare le partite di tua figlia da allenatore? Cioè, riesci a scindere l'aspetto tecnico dall'aspetto emotivo del fatto che appunto è tua figlia e sta giocando? Nel correggere eventualmente i suoi errori, quelli che vedi o i miglioramenti eventuali che pensi potrebbe attuare anche durante la partita in corso da spettatore? Ti dico sinceramente che a Alicia non gli dico quasi niente, a livello, solo se lei mi fa qualche domanda e se non è personale gli chiedo di chiedere all'allenatore se ha qualche domanda, perché penso sia giusto così. L'importante è che lei si diverta, so che lo sta facendo in maniera seria, lo sta facendo con molta passione, e a me questo mi fa piacere. Poi certe volte gioca bene, certe volte gioca male, gli posso dire quali sono le cose che può migliorare, però poi non vado mai a toccare cose che secondo me non vanno dette, anche perché io sono allenatore, quindi loro hanno un allenatore, è giusto che sia lui a guidare il tutto. Se lei mi chiede un consiglio sicuramente glielo posso dare. Non mi aspettavo sinceramente che all'improvviso, da essere una ballerina, in così poco tempo andare a, insomma, a giocare a calcio, che è uno sport per tutti fondamentalmente, perché poi lo sport è sempre per tutti. Non mi aspettavo che avesse questi risultati, deve migliorare tantissimo, però diciamo che ha delle caratteristiche, delle buone caratteristiche, calcia veramente bene la palla, veramente una sua dote principale, è una che corre molto, è una che, insomma, una bella aggressiva. Tecnicamente ancora deve migliorare, però considerando il fatto che è 2 anni che gioca, insomma, è sulla strada giusta. E tra l'altro, Alicia, considerando che sono 2 anni che giochi, considerando che l'esperienza del calcio femminile in Italia è in crescita, che prospettive ti dai? Cioè, come la vivi? La vivi chiaramente come divertimento, come sfogo, come passione, però la vedi anche in una prospettiva di crescita a livello personale, oppure ti imponi di mantenerti a vedere la cosa giorno dopo giorno, partita dopo partita? Allora, io ho iniziato a giocare a calcio appunto in maniera molto tranquilla, molto rilassata, ovvero ho detto inizio per divertirmi, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta fare, fin da piccolina giocavo appunto. Piano piano sinceramente non mi aspettavo di appassionarmi così tanto, di dedicarmi così tanta passione appunto a questo sport, e quindi Per il momento, giusto, siccome ho anche tanto bisogno di migliorare, di riesce, di fare sempre, sempre maggiori esperienze, me la vivo sinceramente giorno per giorno. Cioè, per il momento rimango ovviamente a Montevarchi, perché comunque fra la società e la squadra, le compagne, cioè mi sono trovata veramente benissimo in questi 2 anni. Sul futuro non lo so, io per il momento mi diverto, mi appassiona, sono contenta e quindi rimango su questa strada, poi si vedrà. E tra l'altro nell'immediato futuro dell'Aquila femminile c'è la Coppa Toscana, se non erro, perché malgrado il campionato sia appena concluso c'è questa finale e noi cogliamo l'occasione per invitare tutti gli sportivi ad andare a sostenere la squadra. E rispetto al rapporto tra un giocatore e i tifosi, Andrea, te che hai calcato più o meno tutti i campi di tutte le categorie professionistiche, quindi hai vissuto e subito anche grandi curve, grandi ultras, grandi masse di tifosi, cosa si prova in una partita ad esempio come quella che giocasti in casa contro il Parma, dove realizzasti 2 reti, a giocare la partita della vita di fronte ad un pubblico caldo che ti sostiene e che ti incita? Ma la sensazione è sempre una sensazione fantastica, no? C'è il doppio rovescio della medaglia, però come ci sono gli applausi, ci sono fischi. Vedi la grossa massa che ti applaude nei momenti dove la squadra va bene e ci sono le masse che magari facendo un allenamento te le ritrovi in campo a contestarti, quindi ho provato un po' di tutto. Però diciamo la soddisfazione di giocare una partita con 60.000-70.000 spettatori è immensa. Dico solo che lo senti molto più prima, durante la fase di riscaldamento e magari dopo, però quando scendi in campo e sei concentrato non senti veramente niente, né il fischio né l'insulto. Se un giocatore è attento, è concentrato, c'ha come il paraocchi, no? Pensa solo a fare quello lì, anche perché sono categorie dove non ti puoi permettere errori, perché insomma ti fanno male, e quindi la concentrazione a livello di testa deve essere sempre al 100%, e non hai tempo di magari stare a ascoltare o a vedere quello che succede. Magari te lo puoi, quando le cose vanno bene, gustare all'ingresso in campo o alla fine della partita, quello senza dubbio, oppure come ci è successo svariate volte a Reggio Calabria, al rientro dall'aeroporto, a Genova quando abbiamo vinto il campionato con i 100.000 in piazza. Queste sono soddisfazioni che non hanno eguali, però allo stesso tempo ho avuto anche tante esperienze negative, dove ci sono state le aggressioni, dove ci sono state le contestazioni importanti, e quindi purtroppo è così, e bene o male in tutte le categorie, anche lo stesso Perugia. Io sono stato capitano 3 anni e quindi ero forse l'uomo più rappresentativo, dove ci sono stati, mi facevano anche il coro, come così a Genova, e sono soddisfazioni veramente immense. Allo stesso tempo ci sono state anche tante contestazioni, essendo stato il capitano ero io diciamo il primo che si esponeva, e quindi ho avuto anche tante volte dei faccia a faccia non personali, ma perché io essendo il capitano rispondevo per la squadra e quindi dovevo essere in prima linea, e vi assicuro che in dei momenti è stata veramente dura, anche perché trovarsi 400-500 persone in campo mentre ti alleni che ti circondano non è gradito. Speri sempre che uno che i tuoi compagni non faccia qualche sciocchezza, perché succederebbe l'infinimondo. Insomma, sono esperienze che ti danno, ti tolgono, però insomma nella maggior parte dei casi è sempre una soddisfazione immensa, perché insomma non è facile giocare con davanti a 50, 40, 60, anche 70.000, perché ho fatto la partita dove l'anno che ha vinto lo scudetto la Lazio all'ultima giornata, dove la Juve perse il campionato a Perugia, io stavo giocando con la Regina a Roma con la Lazio, erano 65.000, quindi insomma si fanno sentire. Esiste un trucco, ammesso che esista, quando devi giocare una partita in una condizione dove devi fare il risultato, magari c'è una contestazione in corso contro la squadra dei propri tifosi e quindi devi scendere in campo anche con la paura di non riuscire a fare quel risultato e quindi di deludere le aspettative con tutti i rischi annessi e connessi che più o meno ci hai descritto? Purtroppo l'ho vissuta molte volte, questa sensazione. A livello psicologico è veramente brutta, perché la palla pesa 10 kg, perché invece di magari fare una giocata rischiando la giocata non la rischi, fai il compitino, perché hai paura di fischi, perché il periodo della squadra è brutto e quindi a ogni passaggio ti fischiano, ti contestano. E lì deve venire fuori sicuramente il carattere del giocatore, perché per giocare a certi livelli e in certe categorie non basta solo avere tecnica, forza e velocità, ma molta testa, altrimenti non esisterebbero le categorie, perché ci sono tanti giocatori che giocano in categorie inferiori e vi assicuro potrebbero giocare in Serie A e Serie B. Però a livello psicologico, a livello mentale, devi avere una forza veramente importante, devi lavorare 24 ore su 24 col cervello, e quello è quello che fa la differenza. I grandi campioni sono ad esempio. A livello psicologico devi sopportare, insomma, diversi fattori, perché sei sempre sotto pressione. È lo stesso anche quando sei a casa con la famiglia, perché devi essere bravo a riposarti, a mangiare in un certo modo, a fare una vita sana. Vai all'allenamento, devi avere il giusto atteggiamento, ti devi allenare bene, esci dallo stadio, ci sono tifosi, c'è i giornalisti, quindi è tutto un gestire che alla fine è un po' stanca, però io lo rifarei se potessi anche per altri 40 anni, sinceramente, quindi ben venga. Però insomma ci sono tante sfaccettature che magari chi non l'ha provato in dei momenti si sente anche dei commenti che te, essendo stato dentro, ti suonano strani, diciamo la classica dibattito da bar, no? Perché si dice tante cose non pensando a... magari io dentro di me capisco perché l'ho vissuta e quindi dico questo sta dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra, però purtroppo certe volte succede così. Mentre invece Alisia, te in quest'anno hai avuto l'esperienza, come dicevamo prima, di un tifo, seppur limitato, però nuovo alle vostre partite, alle partite dell'Aquila femminile. Quanto pensi che potrebbe essere positivo per voi trovarvi di fronte ad un numero di tifosi maggiore, anche alla luce di quello che ha appena detto tuo padre, insomma, perché c'è anche il rovescio della medaglia? Noi quest'anno abbiamo visto comunque aumentare sempre di più il pubblico durante appunto le partite. Non siamo arrivati a numeri così grandi, però non ho visto, cioè comunque la mia esperienza è stata abbastanza positiva, ovvero comunque l'appoggio esterno, cioè ovviamente come ha detto mio padre, quando un giocatore concentrato si estranea quasi dall'esterno, da qualsiasi cosa, però vedere comunque un appoggio iniziale o finale fa veramente tanto la differenza, quindi noi l'abbiamo vissuta sempre in maniera abbastanza positiva. Anzi, forse aumentasse sempre di più potrebbe appunto essere una cosa soltanto positiva per la squadra. Certo, trovarci sempre davanti a più persone comunque a livello psicologico può essere più difficile, perché comunque hai sempre più paura di sbagliare, paura di fare appunto la cosa sbagliata, ma comunque da un punto di vista psicologico comunque di supporto potrebbero soltanto aiutare. E adesso arriviamo, come ogni volta, quando nei nostri studi ci sono calciatori, ex calciatori o allenatori, alle domande di rito. Ora, Alisia prima ci ha detto che la sua partita più emozionante è stata quella contro la Sangiovannese, vittoriosa del derby di ritorno. Mentre invece per Andrea, qual è stata la partita giocata con la maglia del Montevarchi che più ti ricordi, che più ti ha lasciato qualcosa dentro? Quella mi ricordo è stata contro la Pistoiese il primo anno. Ho giocato la mia prima partita da titolare, se non erro, contro la Pistoiese. Mi ricordo vincevamo 1-0. Non c'era Caruso, l'attaccante, quindi Discepoli mi chiese in caso di rigore avrei battuto io il calcio di rigore. Quella partita lì dopo l'1-0 ci danno calcio di rigore, presento sul dischetto e non è che me lo para, me lo blocca proprio, cioè proprio non lo posso dire, però male male. E lì ho sentito veramente, ci riallacciamo al discorso di prima, San Giovanni è un San Giovannese, me l'hanno dette di tutte. Per fortuna è durato molto poco, perché forse non era passato neanche un minuto, una palla da 30-35 metri vagante ho tirato al volo e l'ho messa nel croce dei pali, ho fatto 2-0 e da lì è partita, diciamo, la mia storia a Montevarchi. E da lì sei tornato ad essere montevarchino, insomma, sì. Ecco, nel giro di un minuto da San Giovannese a Montevarchino. Questa me la ricordo veramente bene. Poi, insomma, ci sono state diverse altre partite dove ricordo con piacere. Ho fatto sicuramente il secondo anno, soprattutto ho fatto veramente bene. Mentre invece, iniziando da Alisia, ma poi anche a te Andrea, solitamente facciamo anche questa domanda, riguarda le scaramanzie, perché evidentemente nel calcio i riti scaramantici sono all'ordine del giorno. Hai qualche rito scaramantico prima di giocare qualche partita importante? Qualche rito scaramantico personale? No. Però un po' di squadra, cioè siamo abbastanza comunque, cioè ci crediamo abbastanza. Praticamente l'unica cosa che che facciamo è quella lì di eliminare una parte del riscaldamento, che non facciamo mai, perché dal momento che l'avevamo eliminata tipo per 2-3 partite avevamo vinto e poi non l'abbiamo più perso, e quindi per noi è rimasta questa cosa di non fare questa parte del riscaldamento, è un esercizio semplice, quindi solo questo. E presumibilmente continuerà anche l'anno prossimo. Sicuramente. Mentre invece te, Andrea, avevi un rito scaramantico particolare o una serie quando giocavi? No, in particolare no. All'inizio mi ricordo che entravo in campo sempre col piede destro, questo sicuramente. Poi dopo, con gli anni, no, anche perché penso che, insomma, la scaramanzia ha sensazione di debolezza. Però ne hai visti qualcuno particolarmente bizzarro che ci vuoi raccontare, visto che, insomma, hai giocato in tante squadre e ci hanno raccontato anche Bigliazzi, insomma, che ne ha viste di cotte e di crude con i suoi compagni? Sì, scaramanzie ne ho viste tante, da chi si doveva spogliare sempre al solito posto, oppure quello che usava i soliti slip, oppure veniva sempre al campo anche se era 30 gradi con il giubbotto pesante. Ne ho viste veramente di tanti. Ci sono. E dopo questa carrellata di ricordi che sono andati dalla Serie A al calcio femminile, effettivamente stasera è stata una puntata a 360 gradi. È arrivato il momento di ringraziare infinitamente i nostri ospiti di stasera, ovvero Andrea ed Alisia Bernini, per essere intervenuti al Volo dell'Aquila. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori di Radio Big World. Ringrazio il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax, e il nostro ospite santo subito, Stefano Neri, nonché per ultimo il nostro regista di stasera, ovvero John Houston. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la nuova puntata della serie Ti racconto una storia, Il volo dell'Aquila, come sempre sulle frequenze di Radio Big World. Grazie a tutti. Perché è difficile stare in questa domanda. Anche te mi hai detto, inizia ora già a calcio. E io ero contrario. Infatti. Meglio così. Ok, ci sono. No, rifammi la domanda per bene. Io non so, bravo come lui. Che si prova? Il bravo televisione, cioè, la domanda. Insomma, è vero, la Jerry Scott. Sì, timore c'è, ma c'è stato. Timore, tipo, loro ci dicevano, ci hanno detto, che quando sono arrivato a Montevarchi mi trattavano come San Giovannesi. Tornavo a casa e mi trattavano come quello che era andato a giocare a San Giovanni. Ah, okay. Sì, no, non per me, no, perché io... non ho avuto la fortuna di giocare il derby, perché Montevarchi era in quel momento, stava in categoria insomma superiore, quindi quando in Brasile, l'hanno detto oggi, quando in Brasile venne a Milano, Pelé gli misero tra mattoni e non toccò palla. Mi viene da dire Houston, ci abbiamo un problema. John Houston, insomma, perché fuga per la vittoria, Pelé, questi campioni che giocavano in quel film, giocavano per finta probabilmente nel film. Stallone para un rigore, pensa te. Però insomma, Andrea, te ci hai giocato davvero contro i campioni negli anni 90 in Italia, UEA, Zidane, Totti, Baggio, che più ne ha più ne metta, ce ne sono talmente tanti che non ci vengono nemmeno in mente. Ma cosa si prova davvero a giocare contro questa gente qua? All'inizio la sensazione è stata molto strana, perché ero abituato a vederli dalla curva oppure dalla tribuna, alla televisione, me li vedevo accanto. Sinceramente Batistuta e Rui Costa mi hanno fatto un certo effetto, questo senza dubbio. Anche la prima partita, quando sono uscito dal tunnel, che tra l'altro mi sono messo accanto a Bandezzare, quindi sembravo il nano della situazione. La prima cosa che mi ha detto un mio amico: ti potevi mettere accanto a Montero, no, a Van den Sar, è 2 metri, quindi si è visto subito la differenza, no? Ti dà un po' di impressione, anche quando prima che l'arbitro fischia calcio d'inizio, no? Che io ero all'esordio, quindi era il primo calcio d'inizio. Il primo calcio d'inizio in Serie A, già. Pensieri che ti possano venire, adesso mi vedano tutti alla televisione, sicuramente in Valdarno mi hanno visto in molti, e insomma pensavo, se ora mi arriva una palla non la stoppo, faccio una figuraccia, quindi quello era anche un pensiero. Poi dopo aver toccato la prima palla, no, ma mi ricordo bene, questo sicuramente bene, che quando gli assistenti vanno a controllare le reti, c'è quell'attimo, quel minuto che stai prima di battere il calcio d'inizio, no? Che alzi la testa e vedi di là Van der Sar, Montero, Ferrara, Inzaghi, Conte, chi c'era? Del Piero, Zambrotta, Zidane. Lì ho detto, ma io che ci faccio qua? Poi hanno battuto il calcio d'inizio, per fortuna la prima palla l'hanno messa su di me, l'ho colpita subito di testa e da lì non mi ricordo più niente, solo che ho giocato. Ma se posso dire una cosa, ma com'è che funziona quando ci si scambia le magline a fine partita? Cioè, te va a cercare il giocatore con cui ti vorresti scambiare la maglina, oppure se tu sei accanto a uno tu pigli? Quella di Zidane e Batistuta, appena vedi il campo gliela devi chiedere, altrimenti ti dicono l'ho già... La prenoti prima. Altrimenti ti dicono l'ho già... gliel'hanno già chiesta. E te c'è quella di Zidane e Batistuta? Sì, ce n'ho tante, per fortuna, sì, ce n'ho tante. Anche se la più importante è quella di Baggio, perché è stato il mio idolo, diciamo. Però io sempre, se no sembra di fare le domande, però Alicia non me ne vuole, io mi auguro un giorno che a queste domande tu possa avere l'esperienza per rispondere anche te. Però una cosa io mi sono sempre chiesto, no? Da bambino si fa l'album delle figurine, poi un giorno sei te una di quelle figurine. Che effetto fa? Anche quella cosa lì, certo, mi ha fatto strano, ci ho mai pensato a questa cosa. Cioè, sono nell'album delle figurine. Cioè, ti sei mai trovato nella bustina delle figurine? Sì, cioè. mi sono attaccato, perché a noi, tramite l'IC, ci danno l'album completo. Quindi ci arriva l'album, c'è solo da attaccare. E quelle Alice qualcuno l'ha attaccata. Sì, io sì, tante. Ce l'ho ancora. Il volo dell'Aquila svela i misteri, e quindi il mistero di questa puntata è che ai giocatori gli danno l'album delle figurine, bello e fatto. Sì. Pronto. Cioè, questa è una cosa nuova. Non devi andare in edicola a comprare il pacchettino, che sperando di trovarci. Mamma ce l'ha di già. Bene, grazie. E come te lo danno? Cioè, te lo danno tutto insieme? Cioè, ti danno una busta con 500 figurine? Tramite l'associazione calciatori, dove te paghi una quota e... Sì, no, ma le figurine te le danno tutte insieme, tipo una scatola, e te poi le biglie. Una scatola completa e c'è tutte le figurine. Se lo sapessi il Pasquini... Buonanotte a tutti, Buonanotte a tutti, cogliamo anche l'occasione per salutare i nostri amici di Parma che ci hanno recentemente ospitato da loro. Grazie per averci ascoltato.